da Radio NG va per quanto riguarda, siccome sono scarso di osso per mettere gli impianti e ne ho dovuto aprire. Cazzo, senti sta, mamma mia, io lo temo. Bel casino, lo so. Anzi, guarda, ti posso dire, era un caso complicato, dai. Se non ci sono i casi complicati, purtroppo ho dovuto lavorare in quella maniera, se no era un casino. Era un casino. Comunque, dai, piano piano, non posso mangiare nulla, cosa posso mangiare? Bah. A parte mi sono fatto i gnocchetti, quelli piccoli piccoli, certo, quelli non li puoi mai, io li masticavo un po', cioè li masticavo, adesso proprio ingoiati interi. E poi cosa mi sono mangiato? Un pezzo di formaggio, quello dolce sardo, tanto sottile sottile. E poi cosa avevo mangiato? Un budino, roba così, mi. Ah, ma che la gnocchetti ci cascano il troppo. Grasso sono, no dai, non sono grasso. Tu, come ti ho conosciuto io, bello robustello e formoso, un po' di pancetta ti fitta. Chissà la prima fetta, non conosco tutto, la prima fetta te la guzziamo in campagna d'uia. Sì, c'è già sul buon passo. L'hai rotto. Sì, che entra? Ciao, buon cuore. E la bella pancetta ci vuole. Io, diciamo che già sto bene, beh, meglio di prima. Prima ne avevo troppo, adesso un pochino mi è rimasto, ma comunque i movimenti e le cose che sto facendo qua mi stanno un po' buttando giù. Va bene, avanti Natali. Natale, Pasqua e Capodanno. Poi anche io un po' di trippa ce l'ho e non mi piace niente, perché poi ti viene anche l'affanno, sei un po' gogoso. Dovrei fare un po' di allenamento. Roberto, sai cos'è? La birretta, non so se tu non bevi birra, non credo che sei un bevitore di birra. O mai qualcuno te la bevi. Io non sono un bevitore, caso lo sa. Io non arrivo a un limite, boh, mi fermo, basta. Già dal fatto che poi devo guidare anche. Vabbè, nel caso che capita, un bicchiere di troppo, trovo un amico, sai com'è, no? Allora guida la mia compagna. Però preferisco guidare io. Dai, venite tutti con me in palestra, io dai. Forza che stanno riaprendo anche i combattimenti, dai, ci divertiamo. Un casino ragazzi, è un casino. E vabbè. Comunque, come si dice? Già, diciamo il più è fatto, dai, da maggio ancora non ho finito, ne ho ancora 3 mesi. Poi ho un altro intervento da fare sempre. Io devo mandare un amico a Casablanca, faccio un intervento. Natalia ci viene. No, vabbè, io per quel problema non ce l'ho, dai, già sto bene. No, fate gli scherzi, dai. Luca, dai, date il passo, piano piano. Ma è stata lunga l'operazione? No, guarda, allora devo fare un'anestesia quella quasi totale, dai, diciamo così, mezzo, cioè cosciente, però non l'ho fatta perché non c'era bisogno. Un'ora è durato più o meno, ma è stato bravo lui, non so se conoscete Carlo Azzena, è bravissimo, No, io il dentista ne conosco, c'è anche mio cugino, ha lavorato una vita anche al Conti, però io ho terrore del dentista, mamma mia. A me lo dice, sono da maggio, estrazioni, punti qua, punti là, poi vabbè, pulizia, rimozione, carie, triche ballacche, poi devitalizzare un dente, ricostruzione, un casino, non esci più. Io adesso quando esco, Roberto, se tutto va bene, come si dice, salvo complicazioni, finirò a estate. Dai, anche prima, dai, non disperare. Ok, ti facciamo tutti gli auguri più sinceri, dai, non ti preoccupare. Purtroppo sono cose, cacchio, fastidiose, già lo so. Vai, Gianfra. Sì, stavo guardando una cosa che ricevo con l'antenna staccata, non ho capito perché, vabbè, cose strane. La malattia più grave lo sai qual è? Dei denti, avere paura del dentista, perché te la cavi per un paio d'anni e poi ti arriva tutto d'un colpo, quindi è meglio soffrire all'inizio che lasciare andare la cosa, perché poi sono guai grossi. le spese aumentano anche a dismisura per metterci rimedio. Ok, riprendi Claudio. Allora, riprendo io, Dani, che ci vuole, sta cenando, sta masticando sicuramente. Oh yeah. Va bene, dai. Il mio è durato tre ore, intervento. Vabbè, non hai denti, ancora. Quindi, ho la fortuna di non averne bisogno. La mia gamba, per un incidente morto. Ho operato più volte. Oh, mamma. Allora, andiamo fra le paure, sono due. Vabbè, il dentista sa che fa paura. E su il prezzo che ti fa. E quella la paura, ancora di più. Vabbè, tutto sommato, dolore non ne ho sentito durante l'intervento. L'unico fastidio, l'anestesia sotto il palato, lì ho fatto molta anestesia, tanta. Infatti poi quando ho finito di farmi tutto il lavoro, tutto quanto, che mi ha messo i punti, mi ha dato l'assistente Lucky, io lì per lì non ci ho pensato, no? Convinto, ma a me tutta intera mi è caduta, perché sai che ti si fa la bocca storta. Gli effetti dell'anestesia sono quelli. E allora Robbo, raccontami qualcosa di allegro, aiuto. Cioè, oggi non ci credete, tre brutte notizie, poi qui c'è un bel argomento, perché sono un po' così. Carissimi amici, e poi basta, lasciamo perdere. Parliamo di cose più allegre e basta. Cosa volevo dire? Vediamo se Claudio il porcetto l'ha girato. Ci sei Claudio? Avanti, chi è? Sì, ciao Mirko, ben sentito. Un po' bassino di radio, ma già ti tiro fuori. C'è in compagnia mia di Luca, di Gianfranco, Natalino che è apparso e poi scomparso, Eugenio e Torre di Controllo. Vediamo prima cosa. Gianfranco è qui, puoi farla girare. Vai Gianfranco per Mirko. Sì, ciao Mirko, buonasera, ben ascoltato. E niente, a chi rilancio? A Eugenio, vediamo se lo sente. Eugenio? Sono qua, non so se Mirko, io riesco a tirarlo fuori, Santiago 0, Radio 1, non so se mi ascolta lui. Ciao Mirko di Alghero, tante cose belle, ciao, mi ascolti? Allora Mirko, il segnale è super il 9 con i picchi, però la radio è troppo bassa, non è un granché, ed è molto ma molto meglio l'altro giorno. Adesso ti sei abbassata ad 8, c'è un cambiamento di segnale da 8 a 9 e un pezzettino, un pochino, però l'altro giorno eri molto molto più forte di radio, il segnale è di ritorno a 9, però eri molto più forte di radio. Adesso ti tiro fuori, sì, però ti do 5 di radio, però è bassino. Ah vabbè, allora dai, così se riesci a migliorare ti ascoltano bene anche gli altri, perché qualcuno ha difficoltà. Io sono nato però anche lo sono abbastanza aperto, ma quelli della parte bassa hanno un po' di difficoltà. Ok, vediamo se è rientrato Claudio, se no riprende Gianfranco e poi farà girare per Luca. Oh Claudio, vediamo se Natalino c'è, che l'ho chiamata non ha risposto. Vai Luca, sono tutti scomparsi. Vai Gianfranco. Sì, a volte ti chiamano e quindi non ne puoi fare almeno. Robè, ti volevo chiedere una cosa, se sei disponibile ti faccio vedere una cosa di quel programma, però questa volta viceversa, sono io che te la mando a te e non io che intervengo sul tuo. Quindi cosa facciamo? Mi sposto? Ce n'è un altro canale? Se no disturbiamo qua. Sento, è una cosa veloce, giusto per darti l'idea. E cosa andiamo, canale 16 o io come ieri? Ah, indifferente. No, ma devi dare codici, qualcosa o non c'è problema? No, solo visivo, di funzionamento. Tramite computer naturalmente, allora andiamo sul 16, scusate un attimino, ci spostiamo sul 16, scusa Mirko, scusa Eugenio, Claudio e compagnia, e Luca, ci spostiamo un attimino sul 16. Ma boh, ci sentiamo più tardi, dai, intanto non è rimasto nessuno, a più tardi, ciao. E io, già fra 16. Esecutivo, scusate, riprendete pure. Prova radio, prova 1, 2, 3, prova. Andiamo bene, andiamo. Non potete 27. Chi è te? No, già sono ancora io, mi ero allontanato e c'ho roba al fuoco. Ah, ho capito. Iaia. Oh, sa, c'è freschetto, eh? C'è freschetto. Non freschetto, ma è freddo. C'è freddo, ero fatto l'aria con la spesa, sono uscito fuori dalla mamma, ho detto che la biancherassi. Dentro casa già si sta bene. Ma caminetto hai lì, sì? No, quindi se un caminetto devo... No, no, no, mamma mia. Muzza, polvere, no, no, no. No, c'ho scaldamento normale a caldaia, io ho quattro termosifoni nel salone da 16 elementi, uno in tutte le stanze, lo stesso, grandi. Caldaia per i fatti miei c'ho. E già è bello il caminetto qua. Allora, il caminetto se è sporca perché non è pulita la canna a fumare, ma se viene pulita correttamente, il caminetto è un bijou, ci può arrostire tranquillamente ogni tanto, altro che... Tu qua non sei venuto, io arrostisco fuori, c'è la veranda fuori, attaccata alla veranda c'è il caminetto, c'è il baby Q. Gli stati di roba anch'io, non c'è nessun problema. No, ho capito che stavo parlando con Maria, ma ecco, non c'è problema? Ho detto ce l'ho fuori il caminetto, ce l'ho fuori per arrostire, ce l'ho fuori attaccata alla veranda. Ah, ho capito. Andiamo bene, andiamo, come dice un amico, catta. Catta, so che non si è presentato l'esame, questo mi dispiace tantissimo. No, a me me l'ha spiegato che praticamente Roberto l'ha fatto online, lui lo doveva fare scritto, capito? Però adesso si fa a Cagliari, lui voleva scendere a Cagliari. No, non ce n'è più scritto, ma cosa dite? Mandi a Digito e arredita il Baperino, non ce n'è più. È tutto online adesso, nuova generazione. Ah, così, no, scusi, ma ha detto, poi se sarà informato, non lo so. Per carità. Bene, allora, non è semplice. Diciamo che evidentemente lui no, in materia di computer è un po' scarso e quindi non ha voluto rischiare. Ma è tutto via internet adesso, capito? Gli esami sono tutti online. Se so che degli esami di cura online, non stai scherzando. Sino a quando non sparisce questa pandemia non ci saranno più esami così come ho fatto io nel 93, che eravamo 120 in una stanza, ma stai scherzando. Vabbè, Savato, il figlio di Maria l'ha fatto a scuola, lo ha fatto online. Con la pandemia è tutto, eh. Vabbè, vaccinati è tutto, però... E vabbè, sicuramente online è più difficile. Chissà quanti ne hanno crepato, ma Roberto è uno dei pochi che è riuscito promosso. 23 candidati su 23, questo è il risultato ufficiale. E Sardi sono Roberto. No, Sardi ce n'è anche la zona di Cagliari. Vabbè, vuol dire che l'ho studiato, eh. Roberto mi ha mandato un link per vedere un po', però non me lo apre. Non so perché, per vedere, dare un'occhiata così. Ma per quanto riguarda il computer, cioè riguarda il computer anche, il sistema del computer ti chiedono, Un po' di cose ti chiedo, devi studiare. Quando uno prende una cosa, deve tenere studiando, no? Leggendo i giornali di Abur. Certo, ci mancherebbe. Beh, certo che sì, è come la patente, uno deve tenere studiando, perché se uno, ti faccio un esempio, prende la patente, che non sa manco che cartello è quello, non va bene, capito? Guarda, io ti dico, nel 1993, me lo ricordo come oggi, ti sto parlando del 1993, siamo nel 2021, quindi immaginate tu quanti anni ce l'ho. Collaborare ai Torellai di Torella Verde, mattina e sera, facevamo 3 ore di mattina e 3 ore di sera, 3 ore di mattina e 3 ore di sera. Domanda, risposta, quiz, da allora era tutto scritto, tutto, compito scritto, 5 ore di compito, non ti budisci muovi da anch'ini, a meno che non finivi, consegnavi però rimanevi lì, capito? Quindi preparazione, io tra l'altro mi ricordo perfettamente, siccome avevo l'azienda dei trasporti allora, stavo rientrando da Modena. Stavo rientrando da Modena per conto di un'altra persona, ok, mi aveva chiesto di portarle dei mobili a Modena, li avevo portati. Ho sbarcato alle 7.10, 7.10 era d'estate, quindi il tempo era bello, 7.10 aveva attraccato la Tirrenia. Sono arrivato a casa, non so che oggi mi sono cambiato, sono arrivato l'ultimo di tutti a Cagliari, l'ultimo di tutti. Quindi immagina di me a stress. Beh, ti credo. Più stress di chi su? Mamma mia, io ce l'avrei fatta. Lo so lui, però io ero preparato, dovevo andare, adesso che ho passato la prima. Quindi no, cioè se devi ottenere una cosa, sono il parere che l'avevi fatto tutto qua. Ci mancherebbe, perché ti ha fatto, te l'ho detto anche prima, per quanto riguarda la patente. Non che tu fai, paghi, uno studio te la danno, no, è sbagliato. Un minimo lo devi sapere. E così è la patente radioamatoriale, magari c'è quello bravo che ti dice tutto, magari c'è quello meno bravo che c'è comunque, capito? Così uno che è bravo sull'elettronica, tranquillo gli passa la grande. Tipo di borso di Antonio Riserva, secondo me, se va lui ce l'ha prima, secondo me. Comunque, quanto pare il PC di Roberto sta andando bene. Sì, alla grande. No, ma non ho avuto dubbi, lui sicuramente si è un po' incasinato lasciandolo fermo, tutte queste cose, però chiaramente in mano a chi è competente già ci mettono a posto. Adesso vediamo se la Wind ci mette il ripetitore, deve mettere una cella da gestire qua in questa zona, che non ce n'è. Mi riattivo tutto e poi ti faccio sapere. Per quanto riguarda l'internet? Sì, internet e anche la telefonia è molto scarsa, capito? E anche lì dalla parte di Canica, dove abita la mamma di Marina, lo stesso è scarso, non prende il telefono, prende pochissimo. In quella zona lì nessuno ce l'ha l'internet fisso, perché non c'è possibilità, non sono arrivate lì con i cavi. Un secondo. Ehi, cosa stai dicendo? Stavo dicendo che a casa della mamma di Marina anche lì è un casino per l'internet e poi i telefoni prendono poco. Lo so, perché io lì ero andato a vedere un terreno una volta e non pigliava nulla il telefono, ce l'avevo la team ancora, figurati. Un'altra un po' balorda. Questa è perché a Urgilo ci sono le parabole della Vodafone, capito? Sono girate un po' verso l'altra parte. Se dovessero girare verso un po' la zona di Serra Secca, allora prende di più. Ah, beh, senza dubbio. Cazzo, mi avrei da per tutti lo diretto. Cazzo, ma ce l'ha frigo e la gamba. Mamma mia. Ascolto, come va la radio? La mia, sì. Una bomba. Vabbè, quello che mi dà fastidio è la ventola di questo cacchio di alimentatore. Tu una resistenza metti, già sei capace. Fatti dire da Giulio la quantità di impedenza, perché non me lo ricordo io adesso, capito? L'ho portato a 13 mi sa. No, invece è 13,8 a 13, un po' abbassata. Perché se lo porto a 13,8 è ancora più forte. Lasci tu a 13,8 e metti una resistenza dove c'è la ventola. Capito? Nei due contatti al vento, le metto una resistenza, però non mi ricordo da quant'è. E diventa silenziosissima. Adesso questo che stai sentendo lasciuga capelli. Ma il mio non si sente, io gliel'ho messa. Vabbè, silenzioso, la rallenta. La rallenta, sì, la rallenta, e diventa silenziosa, però fa lo stesso lavoro, capito? Gappa. Vabbè. Sento che domani mi sa che faccio un salto, me la compro. Bisogna sapere da quanto è, però non me lo ricordo da quanto è, bro. Mario, me l'ha detto Giulio, ma non me ne ricordo. Gli faccio una bassa a Giulio domani, mi faccio un salto, guarda, me la compro. E si lo ferma, che devo entrare? Dove sei, Carlo? In aeroporto? Sì, arrivi, segnale basso, però la radio è buona. Va bene, dai, quando ti metti in viaggio richiama, ok? Carlo sta partendo da Alghero e all'aeroporto. E lo sento, non arriva qua. Sarebbe come dei colmi. Scusate, questa antenna l'ha messa su, o quel palo andava da Dio, cla. E avevi questa schiareggia forte, KK. No, ma questa già va bene. No, ma io la posizione è buona, pensavo peggio, invece la posizione mia è buona. Cala il segnale dentro Sassari, ma chiaramente perché ero più vicino, però in lontananza non ce ne fa nessuno. Aspetta 2 secondi, devo cercarmi l'orologio, non lo trovo, aspetta un attimo. Fai. Avevo un'antenna qua, Già va bene, passa, attento Chihuahua, ci sei Chihuahua? Chihuahua? Sì, dimmi. Ah, già ci sei, sì, Chihuahua. Chi è che ci sono? Ci sono sempre. Per te, amico mio, ci sono sempre. Grazie, carissimo. Mi c'è Carlo, sta partendo dal vero adesso, che è all'aeroporto. Mi senti bene, sì? Bene. Per forza, come sempre. Vabbè, questo è l'altra, questo è il 430 con le DC60, anche questa già va bene la radio, vanno tutte bene. Come fra con chi sto parlando? Non Claudio, non senti? No, senza te e basta. Ma vai, finirà. Claudio, mica c'è Franco. Franco ne approfitta sempre a modularmi sempre, perché è vicino a te. No. C'è capite già che di che fa vedere con un disastro, se non lo giù e usci in pace. Non ce la fai. Buonasera. E a fare che cosa non ce la faccio? A fare che cosa? A superare a te? No. Se ne vuoi col Gigio da 30 all'armadio, mi posso fare la zamba a tutti quanti. Non ce la fai a superarmi, che sei più grasso, ti sei ingrassato questi giorni. No. Anzi, ho tenuto la linea. Sono nella media, caro Franco. E allora vado a consumare corrente, brutti, ma a fare macchini. Oh yeah, vabbè. Va bene. Sono con la manta adesso, Non sono con la... Infatti il segnale tuo è leggermente più basso. Sono con la Mantova, Mantova è 430. Capo, sì, già si nota, sì, leggermente più basso. Bene, mi è sembrato che c'era anche Luca. Luca? Si è allontanato un secondo. No, vabbè, l'MC60 sto usando la 430, Se senti bordello, c'è mia figlia sta sciogliendo i capelli. Sì, lo sappiamo, l'MC60 raccoglie tutto anche... anche da 200 litri. Oh, ma giù compreso, devo soprammodulare a tutti. Fate la bravo, vi schiaccio a tutti quanti. Agetta, non è Beducci. Agetta, vi ha chiamato Carlo l'Alghero in macchina. Dimmi Carlo, dove sei? Ah, senti il fono, tutto bella. È come il paese di Franco di Sorso, sì. Tra mia, tutto bella, Carlo, lo sento. Sì, l'ho sentito quando ha detto lì a cosa il tutto bella. Ho sentito, non so se lui mi sente, Carlo. Avanti. Scappa. Allora già mi senti. Tu sei bassino ancora, però se stai rientrando, già poi io ti ascolto molto meglio. Avanti, tu ascolti, Luigi. Io basso, non riesco neanche a capire cosa dica, Non so come faccio ad arrivare a Sorso e non arrivare a Porto Torres. C'è a tutto bella. E cosa entra essere a tutto bella? E vedi, ragionamento che non faccio un po' fa, nelle zone, tu non lo senti, invece a me mi arriva, io arrivo. Le zone, purtroppo. È tutto bello, no? È andare dall'angolo, a parte il fatto che è molto coperto per Sassari. Non è facile arrivarci, Sì, ma dico, arrivo a Sorso. Attenzione, Carlo, mi senti? Vabbè, tornati, chi sei Eugenio? Che come vuoi pulire? Adorando io non chi sei il branco. Ma lui non ha idea dove abiti tu. Non lo sai, Eugenio. Non è l'idea. Io tutto bello, arrivo benissimo, arrivo, non ci sono problemi. Vabbè, tu mi hai detto che abiti a Sorso, lo sai in gioco. Vabbè, a Sorso, ma io sono su, molto in alto. La zona più alta che c'è di Sorso. Franco arriva quanto è bello, arriva fortissimo Franco, Arriva che sembra qua, in zona, ma arriva veramente bene, una bella radio, un bel segnalone, cioè. Quanto è il tuo, Cla? Lo sto dicendo che è una bomba, da quando sono passato qua io so se ce l'ho più aperto, capito? Ce l'ho molto più aperto, più visivo, e quindi arriva un bel forte. Arriva fortissimo Franco. Molto, molto bene. Vediamo Carlo dove è arrivato. Carlo? Appena iniziato la 4 così, va bene, vai fra. Capo, ha superato tutto bella e ha preso la 4 corsie, buono. Sicuramente è la sua proposta. Ehi, non sono un abita Franco, abita vicino a casa di mio fratello. l'ha capito. Però ciò non mi aspetta, non voglio avere ciò. E anche la costruzione, quando ho conosciuto a Franco, lo conosco la vita, ma tu sei da Marina però, non sei da tua madre. Sì, sono a casa, sì. Casa da Marina sono, sì. Quando sono sceso a Giovannino? Circa un mesetto fa. Sì, circa un mesetto fa, prendere una cosa, là. E niente, poi siccome sai che ho fatto quella strada di Sennori, sì, salì la salita per andare a Sassari, da lì. E lì abita Franco. E se c'è la Marina, Franco mi disintegra, c'è già troppo che c'è lo stesso segnale suo, ma stai scherzando, ce l'hai lavorato, pensiamo che era tua madre, mi stavo preoccupando. Avanti Eugenio. Ehi, ehi, Carlo, mi ascolti? Qui, dai, ho capito, va bene, dai. Adesso stai arrivando anche tu da me, dai. Sì, ma ho capito una cosa, Cla, perché Eugenio arriva più forte a casa e meno è più basso qua, che sono più vicino verso Porto Torres. Lucarie, cioè, c'è un'antenna di un quarto d'ora con un'antenna a 5 ottavi. Ho capito, ma Franco arriva, vabbè, di solito già non è molto lontano da qua, ma Franco arriva più basso a casa. Capito, arriva più o meno quanto Eugenio, eh? Sì, perché sei già dentro Sassari, è diverso, è normale, Lu. Non ti creare problemi, è normalissimo, anche se c'è un quarto d'onda, però a Franco ce l'hai davanti, a vista ottica ci vede già tutto alla terroccia, è normale. Mentre Eugenio, essendo più sul lato verso Porto Torres, il segnale è più basso, no, non è uguale a quello di Franco. Oh, ma manca paragone. Dimmi una cosa, Luca, e quando sei venuto qua non hai visto le antenne su? Sì, certo l'ho vista, no, l'ho visto solo 90 fa, ero lì di passaggio, le altre non le ho viste, altre ne hai? Vabbè, sono due, sono una bianca e una... è la Mantova. Ah, è così, Cla, per quanto riguarda in PMR arriva bene lo stesso, Cioè lui almeno mi ascolta, perché vabbè, ma arriva benissimo in PMR, sembra qua lo stesso in zona. È normale, è normale, è normale, c'è una zona da paura, Franco, ma stai scherzando, questo è bogeascio, è altissimo, ma io lo so per saputo da sempre. Guardiamo gli occhi, quando ero a casa di mamma, io ho abitato, sino a 21 anni ho abitato a Porto Torres, quindi il baracchino ce l'avevo, avevo 14 anni, Franco, Vannino, la buon'anima di Pino, Falconero, poi Gavera, Merabino, poi era diventato radioamatore. Arrivavano fortissimi, ma una dose, arrivavano quanti quelli, per dire, più forti di quelli di Sassari. Becche? Avanti, Becche. Ciao Luca, ciao Claudio, ciao Franco, salutoni. Ben ascoltati tutti e tre. C'è qualche altro, credo di no, ah no, di Nicola. Cioè Nicola, Carlo, ciao Carlo, mi senti? Beh, c'è anche Eugenio. Ah ok, sì, ti sento, ciao Eugenio. Sì, ti sento bene. Oh Carlo, ti sento molto bene. Sentiamo 7, la radio 5, non è molto alta, però è 5, in quanto alla intelligibilità della radio. Va bene, vai qua. Sì, sì, facciamo riprendere Eugenio che è in parcheggio. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Avanti Eugenio. Volevo sapere, ma che antenna sta usando in macchina? La Turbo 2001? Non lo so, che antenna stai usando in macchina, Carlo? Sirio, beh, ho capito. Ma Sirio, vabbè, comunque dai, io già ti ho sentito, già la conosci, è partito dall'aeroporto, lui è un po' più in basso, è zona mare, Porto Torres, quindi un po' ho avuto difficoltà, ma adesso già ti sento. Avanti, fra, per i saluti a Giulio. Cappa, ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Niente, Carlo, sei già arrivato a Sassari? Cappa. Va bene, va bene, avanti Giulio. Ok, ciao Franco, intanto me l'ho ascoltato, oggi ho un po' di abbassamento di voce, comunque tiriamo avanti, dai. Tutto bene. E beh, oggi, cosa mi racconti? Aiuto. Sì, ti posso raccontare. Sono uscito alle 6:30 al lavoro. Sabato ci sono quasi tutto. Ho scambiato prima quattro chiacchiere con mia moglie. Sono qua. Allora sei rientrato al lavoro, pensavo che era ancora malattia. Io sono rimasto la settimana scorsa, allora pensavo che ancora non eri rientrato. Ah, va bene, sono contento per te, vuol dire tutto a posto e niente in ordine. Avanti Carlo. Ok, adesso è imboccato la camionale e niente, tra 10 minuti penso sarò già nel portale. Ci sentiamo più avanti e vi saluto più avanti, allora per il finale, perché poi tra cambiare, cenare tutto, magari riprenderò dopo cena se c'è ancora qualcuno. Lo vedi quanto lo sento bene adesso. Ciao Carlo, buonasera, ben sentito. Benemera, grazie. Come ha imboccato la camionale, evidentemente è zona buona per me, vedi? Lo sento benissimo. Beh, io lo sento, mi ha fatto anche Santiago Nove, modulati, ti puoi immaginare. Qui io lo sento bene, lo sento, non c'è problema. Avanti Luca. Signori, scusate, riprendo io, vi saluto. Bacioni, abbracci e tante cosce calde stanotte. Ci sentiamo domani che devo andare a masticare. Ciao. Ok, va bene, dai, buonasera allora. Oggi ci sentiamo. Luca, ci sei, se no riprendi tu dopo fra. Luca, sta masticando. Ciao Eugenio. Ci sentiamo alla prossima, buona carica, buon tutto. Poi fra qualche minuto vorrei andare anche io. Avanti Claudio. Ehi Alexia, si mette rumore qua, ci sono phone accesi e balle varie. Ciao oggi, ci sentiamo alle prossimine, è normale che lo senti bene adesso perché la camionale praticamente risulta dietro dove abiti tu, quindi è normalissimo. Avanti Carlo. Ciao Eugenio, ci sentiamo alle prossime. Sì, sarà già andato, riprendi Giulio. Ok, sì, è andato a cenare, Eugenio è andato a cenare, per cui adesso non è più in frequenza. Sì Carlo, adesso ti sei abbassato, ti sei allontanato evidentemente dalla zona favorevole, per me ti sei un po' abbassato, comunque ti ho sentito lo stesso, non c'è problema. Vai Franco. Ecco, sì, si è abbassato così, si è entrato a Sassari, secondo me adesso non lo ascoltiamo più. Probabilmente è in zona negativa ai nostri confronti. Luca, ci sei ancora? Luca è sparito sei Luca. Sempre così fa. Non è caso mai fermo. Va bene, dai, evidentemente ha da fare, che problemi ci sono. Riprendi qua. Ecco. Avanti Breco. Buonasera a tutti. Buonasera anche a te. Avanti, riprendi e vai per chi vuoi. Non so chi c'è, sono nuovo. Ciao, lasciami dire. Perché sei nuovo, pensavo che avessi fatto un po' di ascolto. Questa è una cosa grave. Uno prima di entrare deve fare ascolto. Ciao Massimiliano, mia Massimiliano, mi Claudio, tu mi dicevi che non avrebbe più modulato. Ciao Massimiliano. No, io non faccio tutto quello che era fatto. Ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato. Tutti saluti, volevo entrare a salutarsi. E adesso lo do un bel po' là. Se funziona, sì, ma siamo già. Che problemi ci sono, a voglia, se funziona. Alla grande anche. Dai, ti faccio sentire a Franco da Sorso. Avanti Fra. Ciao Massimiliano, è inconfondibile la tua colorazione. Non si capisce? È inconfondibile. Ha detto, sì, ho capito subito come hai aperto bocca che eri tu. Ciao Fra, benissimo ascoltato, dopo la maria del tempo. Dice, poi, davvero, non ho fatto nessun ascolto, ho sentito Giulio, Franco, poi... No, non è così Fra, non è barattoloso, Massimiliano, dai, lascialo stare. Come stai dicendo? Poi non so per annullarlo. Buonasera. Chi c'è ancora? Ciao Tino, benissimo ascoltato anche a te, dai. Buonasera a tutti, dai, sono entrato così, giusto per dare una botta e via. Ciao Franco, ciao Giulio, Massimiliano. E poi non so chi ci sia, riprendi Giulio. Ok, c'è Claudio e c'è anche Carlo che sta rientrando dal lavoro. Carlo, ci sei ancora? Vediamo se riusciamo ad ascoltarti ancora. Sì, che ci sono, e sono già in Italia adesso, la prima rotatoria, e sono già arrivato, quindi tra 5 minuti sarò a casa, faccio via Milano, mi sentirete quando salgo, non so se ancora riuscite a sentirmi tutti. Io ti ho sentito benissimo, non c'è problema. Va bene, dai. Ti mando avanti a Massimiliano, che probabilmente tu non l'hai mai sentito, visto che sei nuovo della frequenza, perlomeno qui a Sassari. Vai Massimiliano, poi Carlo, ex da Bologna. Ah, ok, dai, ciao Carlo, ben ascoltato per la primiera qua, là. Bulldozer da questa, di nome di fatto. Bene bene, Massimiliano Bulldozer, ben sentito per la primiera anche per me. E me, carica a me. Ma io volevo sentire chi sul gabbo di Bugnetta, che è molto muto, il gabbo in butto. Bulldozer, di nome di fatto, vai, cuoco, male vai. Anche Claudio c'è, ciao Claudio. E me, cacamella. Servitori, guarda, visione. E me, Claudio. Aspetta, Claudio. Oh, scusate, ma io volevo mollare. Ci sentiamo tra le prossimine, dai. Ciao a tutti, buon proseguo, buon tutto. Se ci siete, magari più tardi, se ce la faccio, non attacco. Ciao Franco, dai, riprendo io, sono entrato io a salutarti e tu te ne stai andando, vabbè, dai. Vuol dire che dopo manco io perché c'ho freddo e ho acceso il fuoco. No, devo andare a mettere i piedi sopra il tavolo, ciao. Ciao Fra, buona cena, buon tutto, buona carichetta, le prossimine, quando non riuscirà la prossima, dai, ciao. Cargame! Ciao Franco, ci sentiamo allora, dai, eventualmente domani se coincide. Avanti Luca, hai ripreso? Ciao Fra, salutoni. Oh, saluta Gargamella, non mi sente a me. Sei basso, piccolo e nero. C'era anche Carlo, se non mi sbaglio. Ciao Carlo, per la primiera. Non so se mi ascolti. Sì che ti ascolto, buonasera. Sto ammirando la gru illuminata qua via Milano, dove c'era la ex Mercedes, cosa era? Quella che diceva Roberto qualche giorno fa, tutto illuminato. Ah, a Cipicchi arrivo anche lì. Mannaggia, Vabbè, poi ce la vedrà. Vabbè, oramai non posso più, sono amore da nessuno, sono diventato piccolo e nero anche io. Ma perché il break ho fatto, dai tu? Veramente sei tu che non hai fatto il break, quello prima del Deo. Ricordalo, perché me lo dimentico, Anch'io, non l'hai mai fatto. Ma vorrei, io voglio cenare, ciao Claudio, ciao Tino, ciao Massimiliano, ciao Franco, se sei ancora all'ascolto, ciao Carlo e ciao Luca, saluto a tutti, e Eugenio se è ancora all'ascolto. Ci sentiamo, ciao, chiudo, ascolto finale, chiudo. Vai Tino. Bene, bene, ciao Giulio, vai, buona carica e buon tutto, se è voglia siamo qua. Ok, vai Cla. Ciao Giulio, ciao, saluto anche Franco, a Carlo. E allora Massimiliano Bulldozer, di nuovo il fatto. Ciao Giulio, ci sentiamo dai, non so quando, però già ci sentiremo, dai. Ciao, buona carica, buon tutto, di nome di fatto, a chi problemi di giù? Ci vuole problemi di risolvere. E allora, ma ancora là siete? E là dove? Dipende, là e qua. Dico, un po' distante da qua. Sì, un po' distante da qua, là, sì. E là ancora un altro annetto, un altro anno e mezzo. E poi penso che tutto roggero, dai. Vabbè, Capodagnoli. Non ti ho chiamato stamattina, pensato che stavo rifornendo, ho rotto qualche tubo, No, stamattina lo sai cosa ho rotto? Ho rotto un secchio di tinta che era pieno di gioga. Stamattina non ho lavorato qua, che stava piovendo un me. Io ce l'ho detto a casa, l'idea. Boh. No, ho dovuto chiamare, ma no, sicuramente impegnato con questa pioggia qui e là, e invece no, non ti ho chiamato, vabbè. Sei entrato in radio, quindi mi fa piacere lo stesso. Molto bene. Molto bene. Ma guarda, ero qua che mi stavo un po' strimpellando la chitarra. Ho detto adesso accendo a vedere se c'è qualcheduno. Ho acceso e ho sentito questo, sono entrato giusto per i saluti, dai, tutto qua, per vedere se era tutto in ordine. E io ogni tanto la sera già ci sentiamo, facciamo due chiacchiere. Quando il tempo lo permette, nel senso che se fuori sta piovendo, allora noi siamo tutti in radio, se invece non piove, ognuno è per i fatti suoi, vero ti? E allora, Lucariello, c'era Luca, se n'è andato, Luca. No, l'ha chiamato Mario. marina sicuramente. Io ho saputo una cosa stamattina, allucinato veramente, mi spiace tantissimo, però nessuno lo sa, nessuno ha detto niente, quindi io continuo a stare incognito, però veramente una cosa molto brutta. È meglio che tu lanci la pietra, la scusi, o ti sei zitto del tutto o lo dici? Io lo posso anche dire, sicuramente fa piacere, però vorrei che facendolo sapere qualcuno le mandasse un messaggio, giusto così, no? Sempre per solidarietà, a prescindere da quello che può essere un diverbio, un disguido, una cosa, perché c'è Luca Flipper all'ospedale dal 28 di ottobre, ha avuto una paresi. Io sono un bel po' senza sentirlo, quindi ha deciso così, un bel po' dall'anno scorso. Lo so, però queste sono cose brutte dove uno può anche chiudere un occhio, ripeto, a prescindere dai diverbi, dai disguidi, da tutto quello che può succedere sempre, perché sbagliare è umano, però questa è una cosa veramente molto molto brutta. Mandato un video a Roberto, cazzo, non volevi visto. C'ho la bocca completamente da una parte. Capisco. Che vuoi che dica? A me nessuno mi ha mandato neanche un messaggio, lo so farlo sapere da te, così, capito? Quindi, comunque, io ho sotterrato l'ascia di guerra, come si suol dire, ma per cose stupide non fa testo. Lo so, però sono rimasto veramente di stucco. Stamattina l'ho contattato ho contattato Roberto per un 60, perché lui è sempre in mezzo. Ci ha mandato questo video dicendo appunto che all'ospedale dal 28 di ottobre, una cosa veramente molto molto brutta. Spero non esca vincitore, perché mi dispiace davvero, a prescindere, ripeto, da tutto quello che possa succedere tra di noi, però si parla di umanità, si parla di... mi dispiace tantissimo veramente. Avanti Massimiliano. Io lo stesso, io la prima cosa che sento, qua, figurati, non sapevo niente neanche io, boh. E vabbè, speriamo che si rimetta subito, dai, diciamo così. Ok, dai ragazzi, io la radio l'ho provata, sembra che sia tutto a posto, vi saluto, è stato bello, adesso non so quando riaccenderò, dai, ok? Ciao Tino, ciao Claudio e tutti quelli che stanno ascoltando. Ciao ciao. Ciao Massimiliano, hai dato la benedizione, adesso il prossimo anno, la prossima volta, prima di Natale mi raccomando, fate sentire perché ci fa piacere. Ciao Massimiliano, ciao. Claudio. Ciao Massimiliano, ciao. Io tornando col 14 RMC60, per farti capire quell'operazione che ho fatto. Massimiliano, vedi il buco veloce. Già vai Rubido. Il dito all'accendino anche lui. Vabbè. E io no, ho acquistato un 140 da poco, beh, tra l'altro era anche il mio. Ma l'ho restituito, non lo usavo. Ho cambiato la batteria tampone perché non reggeva più le memorie. Con l'aiuto di Fabrizio, ho detto come fare. Ed è perfetto, veramente nuovo, l'ha tenuto veramente molto molto bene, in ordine, solo che l'ha lasciato 3 anni dentro l'armadio, nessun problema di funzionamento, ma si è scaricata la batteria tampone, vabbè, una cazzata. Spero che stia uscendo bene, va. Sì, e io voglia. No, adesso non dovrei. Ti avrei detto cosa? No, va bene qua. Via, aspetti che mi prendo il telefono però perché ho visto che è arrivato un messaggio. Anda Bex. Carlo, dove sei arrivato? Rotatoria, via Luna e Sole, via degli astronauti, se mi sentite, io tra 2 minuti sono a casa, magari ci sentiamo più tardi, buona serata a tutti. Sì Carlo, ti ho ascoltato, io voglia, Santiago 7, Radio 5, perfetta, va bene, ci sentiamo dopo nel caso. Chi ha fischiato, avanti. Adesso fallo col culo perché con la bocca ci sei riuscito. Giusto per darti un accento. Allucinante, no? consigliava, gli ho fatto un po' la fanopiglia. Adesso abbiamo contattato la Wind e molto probabilmente dopo Natale, però dopo Natale vengono a fare un'ispezione e mettono, molto probabilmente mettono un ripetitore qua nella collinetta, vediamo un po'. Anche io avevo dei problemi qua, ma di problemi tra virgolette, perché bastava mettere un punto e prendeva dappertutto, là. Ha fatto team Vodafone e il nuovo team di nuovo, poi il nuovo Vodafone, quindi adesso mi fermo qua. Era team era meglio che la Vodafone, era uguale. Il mio parere personale era uguale, però la team prendeva magari da altre parti un po' più della Vodafone, ma io parlo qua in casa. Qua in casa sto parlando io come esco fuori dal cancello, faccio 20 metri e prende tutto. E dentro casa che ho problemi, capito? Ogni volta devo uscire fuori, ho una rottura di balle. Sì, anche io alcune volte devo affacciarmi alla porta, però già va bene. Molte volte sto sulla porta, ma sempre dentro casa. E anche io esco sulla porta, c'è la veranda, non c'è tu, però sempre in furasemo, cioè se ho bruciato il divano e mi squilla il telefono devo andare fuori in veranda a rispondere, perché entro a casa cade la linea, capito, la tua balla è quale. Lo so, l'altra sera mi ha chiamato Walter, infatti poi mi ha chiamato a casa perché non prendeva cellulare. Che palle. Vabbè, se lo ti dica. È così, adesso vediamo se riusciamo a risolvere con questa cella Wind, però dobbiamo aspettare a fine anno. Sì, già risolveranno, via, cappa di Roggero. Beh, che si dice? Che si dice? Fra un po' andiamo a vedere se c'è qualcosa da mangiare, cazzo di roba. 4G, ah, Giulio, aspetta a vedere. E io risposto a Giulio. Adesso dovrò un po'. Vediamo, non avevo questo po'. Allora però cazzo in greggio. Che ci aveva? Vabbè, va, girando, va, la rotellina. E c'è 4G, va, non prende un cazzo. Mi fa così incazzare sta cosa, era allucinante. Boh, non so, devo aspettare un attimino che... Un attimino, ancora una ventina, no, 40 minuti circa, che riesce a bere dall'allenamento, poi vado lo prendo. Ma non è uscita ancora, perché? No, sta facendo dalle 7 alle 9. No, dalle 7 alle 9, io va bene, oddio, orari di cacchio sono. E allora, va bene quando fai per dire dalle 5 alle 7, allora una cosa più... Adesso, cioè, a parte che c'è umido, sudi perché l'allenamento è intenso, poi lui non si fa neanche la doccia lì, se la fa qua, quindi prende anche freddo. È un casino, gli orari del calcio solissimi, pare a me, non ho capito perché sono così. Perché devono dare spazio anche ai piccoli, medi e grandi, insomma. Vabbè, era un bello allenamento lì vicino a te, però dai, al campo della Teroggia. Sì, ci mancherebbe altro, se no mica l'avrei. Infatti c'era una discussione in corso, nel senso che, ma se lo chiamo a Cagliari, sì, a Cagliari deve andare, là Sabini deve andare. Ah, sì, lascia perdere, quando è un pochino più grandetto, allora magari si arrangerà per i fatti suoi, ma per il momento cerca di tenertelo vicino. Ebbene, non ci mancherebbe altro, ma poi non esiste, capito, non è che... Finché è grande è automobilico è un'altra cosa. Infatti, è come nell'aria. Quando è iniziato era nel gruppo Miliar, che è una multinazionale spagnola alberghiera, e se la voglio buttare in Spagna va via Sidisano, ecco, lasci perdere, già lo trovo anche qua al lavoro. Infatti come ha finito di lavorare e di studiare è entrata subito al Mecchilona, capito? E allora, aspetta un attimino qua. Non riesco a capire perché Siamo sempre in disaccordo. Ogni tanto la devo accordare, ma questione di questa banda qua, però negli altri accordo e basta. Ma come mai? Ah? Cosa? Cosa hai detto? Ah, ti ho detto come mai, grazie, tu con la per qua a capo. La gente è troppo spicci. Loro non avevo questo bocca. Pare faccia di bene il cazzo che arrivano a piedi. Se c'hai il prosciutto, cosa vuoi ti dica? È in camera sua, ma se chiudo la porta c'è anche Filippo, qualcosa vuole, no? Cosa c'è? Di non c'è. Ehi, e cosa? Ehi. Vai a fare la pipì, vai. Se non l'accompagno io l'accendo la luce, devi dire che non lo esci. Invece il mio ne approfitta quando si apre appena la porta con una sorpresa zumbata del Trento. Sì, no, lui già è sempre dentro, poverino. Adesso non lo copre, lo mette a manna, gli ha mangiato la pappa, adesso lo copre, no, non avvicina la televisione. Ci vuole vicino al termoventilatore, al termoconvettore. Viaggio Rango. Sì, lo so, ma vabbè io no, sto dormendo fuori, però qualche volta entra a casa e si siede vicino a me, gioca un po' con Nico, spero di dormire di nuovo fuori. No, e lui poverino è stato abituato a in condominio, quindi è sempre vissuto dentro e mi auguro gli auguri, c'è un freddo qua sì. Sono ben alto io, stamattina c'erano i vetri della macchina ghiacciati. No, ghiacciati no, però la unità c'era. Ha acceso, ha fatto andare il TG cristalle, si è intesa la spazzola mezzo sciolata, quindi si vedeva che era proprio brina, ma aveva già preso una temperatura molto molto bassa, c'erano 4 gradi. Qua scheveggia forte, sicuramente a dicembre qualche fiocco di neve lo vediamo qua su. Chiamami che così facciamo la palla di neve. Ehi, non ti dico palla di neve, com'è che c'è un programma, era detto Google. Le palle di neve, lui, Puppazzo di neve, puppazzo di neve. Ehi, a cosa? Fichidiglia. Un po' che non ci sono più quelli lì. Per forza. È giunto Nicky, penso a Guido. A Guido si fa bene, Guido tutto con le cicatrici, non mi ricordo come si chiama, sono un po' ritirati. A tira uno anche sul mondo. E chi è? È il telefono tuo, vero? Sicuramente. Sì, il telefono mio. Sto arrivando qualche messaggio. Come sta chiamando qualcuno ma non prende, non chiamatene perché intanto non prende. E mio padrino come sta bene, sì, sempre più grasso. Era Modena ieri, non dovrebbe essere rientrato oggi. Bella Modena, e ci sono andato io. Sono andato di torre. No, devo andarci anch'io, vabbè quando riveniva bene, quando dovevamo fare qualcosa, ma capita sempre che uno o l'altro è impegnato, è di fretta. Ma perché non ha finito ancora di lavori? Ancora facendo lavori, sa? No, per fare un viaggio con lui. Ah, ehi, cappagacco. Io ne ho fatto io. Sì, lo chiudiamo prima. Adesso andiamo più a sciampare. Ma lo puoi fare su. Se deve fare un po' che non dico sì, non squilla più. Allora, lavori ce ne sono da fare, che ho messo via del tempo, io sto lavorando sino a venerdì, quindi poi adesso sto facendo anche un po' di roba qua a casa perché sono libero e quindi le stiamo raccogliendo. Niente, non posso andarci, però quando finisco qua devo riandare, devo mettere ancora un po' di tegole, insomma, un po' di lavoro da c'è. Vedi, io devo mettere una canala, sono due tegole che escono, non avevo messo nel canale, due tegole che escono nel terrazzino di sopra, d'aria, e praticamente quando piove mi piscia l'acqua nel giardino, allora devo tagliare le tegole, mettere i tubi e portarli, canalizzarli là. Ma sta sempre facendo tempo brutto, adesso va a far culo. Ma se tu pensa che ho un PCT finire dentro praticamente un tubo che questo tubo però passa anche all'interno del bagno, qui c'è fatto un finto trapano, quindi non si vede niente, e scarica fuori. Urgenza di fare un po' di mappelatiche, insomma isolarlo un pochino perché mi entra un pochino di umidità, non riesco a farlo. La stessa cosa lo farò io, c'è un pezzettino del cabello, ma cagate, per carità, sempre il telato di sopra che mi avevamo lasciato senza pavimentare, e mi ero nato e boh, e ogni tanto avevo qualche macchiolina di acqua. Adesso bisogna di darle il cartone catramatto, mettere gli altri mattoni, e ce n'è sempre a fare, tipo man mano che vedi, sai, d'inverno vedi tutte le magagne, le cose, e quindi poi te le fai per essere sicuro la prossima inverno qua. Va bene, dai, che mi hanno chiamato, questo ha finito col fond, vado a mangiarmi un boccone e poi mi guardo la partita, c'è Italia-Svizzera, ok? Ci aggiorniamo, grazie delle due chiacchiere, cordialità a casa e salutissimi, ciao. Iacca, dai, anche io tanto mi fa un po', sono preparato, vado a prendere a bere, ma più tardi se ci sei sono ciccia, ciao. Buona serata, sotto in casa. Ciao, se la partita mi annoia già lascio acceso, qua non spengo niente io. Dai, ci aggiorniamo dopo. Ciao. Ciao.